il 6 marzo 1715 le autorità portuali della Repubblica di Genova concedono l'esenzione dalle spese di dogana per l'esportazione e l'imbarco sulla nave di un grosso carico di marmi bianchi di Carrara, contrassegnati col giglio di Francia, e di marmi neri Portoro, ordinati alcuni anni prima dal re di Francia e destinati a Parigi. Il marmo Portoro, qui vediamo una balaustra di marmo Portoro nella chiesa del Gesù a Genova, prima metà del Seicento, era il più prezioso dei marmi del territorio della Liguria. È caratterizzato da un nero profondo venato di giallo e le cave erano sul promontorio di Porto Venere e sulle vicine isole di Palmaria e del Tino. In un documento del 1610 viene descritto come un mischio, marmo screziato, variegato, bellissimo e molto gentile al lavorare, cioè molto facile da scolpire, et che piglia lustro e polimento bellissimo, cioè che può essere lucidato fino a splendere, e di grande saldezza, molto forte e compatto. Con questo marmo si potevano infatti realizzare colonne monumentali. Nell'isola del Tino ve n'era anche un altro tipo meno pregiato, il portargento, nero con venature bianche. E lo stesso documento dice: il bianco vi scherza assai graziosamente, cioè a gradevoli disegni, è pietra molto salda, senza difetti, e piglia un bellissimo lustro. Lo stesso documento del 1610 parla dell'esportazione del Portoro a Roma, a Firenze, in Francia. Il documento, finora inedito, sulla spedizione di marmi da Genova a Parigi per il re nel 1715, è una delle numerosissime testimonianze che attestano come Genova fosse il centro del commercio per i marmi di Carrara e di Liguria verso l'Europa. Le più recenti ricerche d'archivio hanno rintracciato su questo commercio una imponente documentazione ed esiste già una ricca bibliografia. In questa sede accennerò molto brevemente ad alcuni aspetti di queste vicende. Queste sono le vie del commercio dei marmorari genovesi dal 500 al 700 soprattutto. È un'illustrazione dell'importante libro di Christian Clapiche-Zuber pubblicato nel 1969 su Carrara. Ma vi ho portato alcuni aggiornamenti: Corsica, Sardegna, Lisbona, Saint-Malo. La Clapiche-Zuber scrive che le prime notizie dello sfruttamento delle cave di Carrara si trovano proprio nei documenti dei notai genovesi. La prima è del 1191. Una colonna di marmo bianco di Carrara viene consegnata nel porto di Genova ad un magister Antelami, cioè un maestro architetto della corporazione lombarda degli Antelami, che in quegli anni avevano il monopolio delle realizzazioni architettoniche in città. Lo sbocco commerciale a Genova dei marmi di Carrara fu favorito anche da una particolare situazione politica. Fra l'aristocrazia mercantile di Genova e i signori di Carrara vi furono sempre stretti rapporti. Intorno alla metà del Quattrocento, ad esempio, Carrara era feudo dei genovesi Fregoso, e nel Cinquecento divennero signori di Massa e Carrara i genovesi Cibo. Fu il principe Alberico Cibo, investito dall'imperatore Carlo V della signoria, a favorire i marmorari e i commercianti genovesi e a istituire nel 1564 l'Officium Marmoris, l'ufficio dei marmi, del marmo, che regolava e sottoponeva a tassazione la vendita dei marmi di Carrara. Inoltre, dal 1570 circa, l'appalto della riscossione delle entrate dello Stato e dunque anche dell'Officium Marmoris viene assegnato soprattutto a banchieri genovesi come i Grimaldi e i Sauli. Nel contesto di questa favorevole situazione di rapporti politici ed economici, a Genova l'attività dei lavoratori del marmo, scultori e commercianti, è saldamente strutturata nell'arte, cioè nella corporazione, degli scultori di nazione lombarda. Eredi di quei magistri Antelami che fra la fine del secolo XI e gli inizi del XII erano giunti a Genova ed avevano aperto i cantieri architettonici come quello della cattedrale. Anche i membri dell'arte degli scultori sono nativi di paesi tutti localizzati nella valle Intelvi, attorno ai laghi di Como e di Lugano. Bissone, Carona, Casasco, Rovio, Scaria, Ramponio, Balerna. Alcune di queste località fanno oggi parte della Svizzera di lingua italiana o Canton Ticino. Questi artisti lavorano a Genova, ma conservano un costante rapporto con i paesi di origine, dove, almeno fino alla metà del Seicento, fanno nascere i loro figli, per mantenere lo statuto di nazione lombarda che concede loro alcuni privilegi. Le loro botteghe sono imprese familiari, in un intreccio strettissimo di parentele, che rafforzano e confermano la solidarietà di mestiere e di nazione. Gli Aprile, i Gaggini, i Carlone, gli Orsolino, i Ferrandino, i Casella, i Lurago, gli Scala, i Quadro e altri, tutti imparentati fra loro, riconoscono nell'arte e nei suoi consoli, regolarmente eletti, l'istituzione che ne difende il lavoro e gli interessi. Fino al Settecento queste famiglie di scultori avranno il monopolio della produzione dei manufatti scultorei, del commercio dei marmi grezzi e lavorati, della conduzione delle cave del territorio ligure e spesso trarranno buoni guadagni anche dal trasporto dei marmi, mettendosi in affari con i costruttori liguri delle navi che trasportavano i materiali. Nel Seicento la cava del prezioso Portoro dell'isola Palmaria viene concessa ad esempio ai Carlone, che lo spedirono a Roma, a Napoli, a Firenze e in Sicilia. E nel 1644 Tommaso Orsolino partecipava alle spese di costruzione di una nave destinata alla rotta di Tolone. Molto spesso due o più famiglie di questi marmorari si costituivano, con atto notarile, in societas, compagnia, temporanea per lo sfruttamento di una cava o per commerciare marmi all'estero o per realizzare opere particolarmente complesse e impegnative, come la decorazione marmorea di chiese e di palazzi. Ognuna di queste botteghe produceva l'intera gamma dei manufatti marmorei, dalle sculture sacre e profane, all'arredo architettonico, altari per le chiese, colonne, capitelli, portali, finestre, pavimenti per le chiese e per i palazzi. Le botteghe erano situate quasi tutte alla ripa, e cioè davanti alle banchine del porto, dove attraccavano le navi e si scaricavano i marmi. Dal 1532 in poi la Repubblica emanò numerosi decreti per obbligare i marmorari a collocare una graffa, cioè una griglia, davanti alla porta della bottega, per impedire che gli schizzi di marmo prodotti dalla lavorazione colpissero i passanti, ma soprattutto per impedire che i detriti finissero nelle acque del porto. Nel 1693 uno dei tanti decreti descrive la situazione. Le segature, sabbie e rottami dei marmi delle botteghe in tempo di pioggia scorrono con facilità nel porto, dal quale riesce quasi impossibile levarle, facendosi una materia durissima. E nel 1609 un altro documento lamenta che le case vicino alle botteghe erano diventate inabitabili per il tormento e timpeto grande che costoro dall'apparire del giorno sino alle ore di notte per l'esercizio loro fanno, e cioè per il continuo fortissimo rumore che gli scultori fanno per il loro lavoro dall'alba al tramonto. Dunque la ripa era un grande cantiere in perenne attività. Mentre si lavorava nelle botteghe, giungevano le navi che scaricavano i marmi grezzi e imbarcavano i prodotti lavorati, da recapitare nei porti della Liguria, d'Italia ed Europa. L'unità di peso genovese per il trasporto dei marmi era la carrata, cioè quanto marmo poteva trasportare un carro tirato da due buoi, circa 3/4 di tonnellata. Alcune navi potevano portare fino a 100 carrate. Il trasporto via d'acqua era il più rapido ed economico. Nei tragitti per terra si usavano carri oppure, soprattutto per opere di grandi dimensioni come le colonne, le lese, specie di slitte trainate da buoi. Il bianco di Carrara rimase sempre il materiale più richiesto per la lavorazione e l'esportazione da Genova. Il più pregiato era quello statuario delle cave del Polvaccio, che gli atti notarili descrivono marmoris boni albi pulcri et sine pillis, cioè di buona qualità, bianco, bello e senza peli, cioè senza venature. Meno costoso era il bianco avenato, cioè con venature grigie, che veniva usato per gli elementi architettonici e per i pavimenti. Per i pavimenti veniva usato a Genova ed esportato anche il bardiglio, un marmo grigio scuro che si estraeva in Versilia, cioè zona della Toscana fra Carrara e Forte dei Marmi. Molto raramente venne usato per decorazioni architettoniche, come nella Cappella dei Franzone, realizzata nel 1677 da Giovan Battista Casella nella chiesa genovese di San Carlo. Un altro marmo di Toscana, commerciato dai genovesi, era il bellissimo mischio di Serravezza, o breccia medicea, un marmo a macchie violacee che si estraeva da cave vicino a Forte dei Marmi. Questa è una colonna della chiesa genovese di Santa Maria della Consolazione. Ecco, un caso del tutto particolare è quello del marmo d'Arzo, che si estraeva da cave delle Prealpi svizzere, attuale Canton Ticino, un bellissimo mischio screziato, rosso, giallo, verde, grigio, perfettamente lucidabile e di grande effetto. Vediamo qui una colonna della chiesa genovese del Gesù, prima metà del Seicento. Ecco il trasporto. Il trasporto avveniva per via d'acqua. Questo era il trasporto. Ecco. Sul lago di Como, poi sul fiume Adda, fino alla sua confluenza nel fiume Po, poi sul Po fino al mare Adriatico, dove veniva caricato su navi più grandi che facevano l'intero periplo d'Italia per giungere a Genova. Un trasporto lunghissimo, che la bellezza di questo marmo non basta a giustificare. Era una questione, infatti, di imprenditorialità. L'arte degli scultori lombardi voleva favorire le cave del proprio paese, proponendo alla committenza un materiale dal trasporto più dispendioso, che però incontrava perfettamente il gusto genovese per il colore variegato e vivace. Le colonne del Gesù, che abbiamo appena visto, pesano circa 4 tonnellate e sono alte dai 4 ai 5 metri. Un altro caso particolare è quello del diaspro di Sicilia, o breccia di Palermo, del quale ha già trattato l'interessante relazione di Valentina Gagliardo, uno splendido mischio a pezzature rossastre, gialle e violacee. Ecco, questo è l'altare di San Martino di Roccaforte Ligure, metà del Settecento. Le ragioni dell'importazione e del commercio genovese di questo marmo, vediamo qui la balaustra della chiesa parrocchiale di Senarega, metà del Settecento, si collocano nel contesto degli stretti rapporti commerciali fra Genova e la Sicilia e della presenza in Sicilia di marmorari lombardi, soprattutto i Gaggini da Bissone, che nel 400, ad esempio, avevano il monopolio della scultura marmorea e della fornitura di marmo di Carrara in Sicilia. Le stesse navi che fino al Settecento trasportano marmi carraresi e liguri, anche come il Portoro in Sicilia, compiono il viaggio di ritorno portando a Genova il coloratissimo diaspro, assieme alle altre due merci siciliane, la cui produzione era saldamente nelle mani degli imprenditori e commercianti genovesi residenti nell'isola. Il grano, necessario in Liguria, dove l'agricoltura era praticamente inesistente, e la seta grezza, preziosa materia prima per i tessuti di seta e di velluto prodotti dalle manifatture genovesi ed esportati in tutta Europa. Il diaspro dunque rientrava in un movimento commerciale molto intenso, che ne rendeva conveniente l'importazione e soddisfaceva anch'esso, come il marmo d'Arzo, il gusto genovese per il colore vivace delle pietre decorative. Un gusto che caratterizza i pavimenti, le pareti, l'arredo delle chiese e dei palazzi. Ecco, questo ad esempio è il pavimento della chiesa di Genovese di San Siro, metà del Seicento. Ecco, andando più avanti, siamo al 1755, questa è una parete della cappella di San Francesco da Paola, nella chiesa di San Francesco da Paola a Genova. Tutta la cappella, pareti, pavimento, altare, sono opera di Francesco Maria Schiaffino, è veramente uno scrigno prezioso. È per questo gusto del colore che i marmorari genovesi importano il bellissimo mischio di Francia, cioè il marmo di Caen, che però nei documenti genovesi viene chiamato rosso di Narbona, di Narbonne. Perché Narbona naturalmente era il porto di arrivo. Ecco, qui abbiamo un bel disegno, un bel progetto dello scultore genovese Giacinto Aicardo, per il tempietto per l'esposizione del Santissimo Sacramento sull'altar maggiore della chiesa genovese del Carmine, il tabernacolo esiste ancora, realizzato nel 1675, qui vedete il marmo di Caen. Nei documenti è sempre specificato mischio di Francia o rosso di Narbona. Nel 1645 Tommaso Orsolino, Gio Giacomo Porta e altri scultori costituirono una societas, compagnia, per estrarre questo marmo dalle cave appunto di Narbonne e fornirlo alla committenza genovese e italiana. Quando nel 1648, pochi anni dopo, estesero l'inventario dei mischi di Francia ancora in bottega, contarono ben 40 colonne, oltre ad altri lavori. Nel 1661 inviarono una fornitura di questo materiale a Napoli per la Chiesa dei Gesuiti. Ecco, questo è il paliotto dell'altar maggiore della Chiesa parrocchiale di Savignone, metà Settecento, e qui vediamo nel cartiglio centrale fra due zone di mischio di Francia uno dei più famosi ed esportati marmi di Liguria, il verde Polcevera, di cui si è già parlato. Un mischio verde scuro venato di verde più chiaro o di bianco, che si estraeva dalle cave di Pietralavezzara, nell'alta Val Porcevera, cioè nell'alta Liguria ai confini del Piemonte. La documentazione, soprattutto del Seicento, attesta la ricchezza di marmi colorati del territorio ligure. Alcune cave sono oggi esaurite, di altre non è facile identificare l'antica ubicazione, come quella che in un documento del 1626 viene indicata per un diaspro di diversi colori come l'arco celeste, cioè come l'arcobaleno, non sappiamo dov'era. Esaurita dalla seconda metà del Settecento è la cava del Monte Gazzo a Sestri Ponente vicino a Genova, che produceva un bellissimo alabastro, color giallo aranciato, con preziose maculazioni, così descritto nel 1610. Piglia bellissimo lustro, è di colore simile all'agata, però più rossa, con variati andamenti di macchie oltremodo graziosi, cioè prende benissimo la lucidatura di colore rossastro, con varie movimentate macchie e striature. Nel 1645 gli attivissimi Tommaso Orsolino e Gio Giacomo Porta ottenevano l'appalto della cava. Infine, questo non è un marmo, è una pietra, ma anche questo è diffuso appunto nei decori architettonici, una pietra di un nero profondo e vellutato che fu molto usata per l'arredo architettonico dal 400 al 700, la pietra di promontorio, che si estraeva a San Pier d'Arena, cioè proprio praticamente a Genova, ai confini della città, vicino al promontorio della Lanterna, e fu esportata in Spagna e in Francia. Soprattutto era usata per i cammini. Ecco, ad esempio, erano certamente di pietra di promontorio i grandiosi cammini di pietra nera, giunti da Genova, realizzati per la lussuosa residenza, oggi distrutta, del cardinale genovese Gerolamo Grimaldi a Puricard, vicino a Aix-en-Provence. Ecco, questa è la pianta della residenza che oggi è allo stato di rudere. Il Grimaldi, dopo una splendida carriera politica ed ecclesiastica favorita dal cardinale Richelieu e dal re Luigi XIII, nel 1655 era stato nominato arcivescovo di Aix-en-Provence. E negli anni 1665-1677 si fece costruire un grandioso palazzo sul modello delle ville genovesi. Nell'altare della cappella del palazzo, questo altare oggi si trova nella chiesa parrocchiale di Puy Ricard, venne usato il marmo verde di Polcevera e i grandi camini delle sale erano scolpiti in pietra nera di promontorio con figure, festoni di fiori, colonne e frontoni. La grande via del marmo, da Genova per la committenza francese del nord, era servita da navi genovesi in genere fino a Cadice, dove viveva una numerosa comunità di commercianti e banchieri genovesi, e dove erano presenti anche commercianti e armatori di Saint-Malo. Qui i marmi venivano imbarcati sulle navi di Saint-Malo e con queste giungevano alle Havre, l'estuario della Senna, da dove per via fluviale arrivavano a Parigi. Fra la fine del Seicento e il primo Settecento, i ricchi armatori di Saint-Malo, Lefebvre, i Picot, i Dubois di Montmarin, ristrutturarono e abbellirono le loro residenze con i marmi di Carrara provenienti da Genova. Nel 1744 giunsero a Saint-Malo i marmi per lo scalone, i pavimenti, le statue, le fontane da giardino, per le residenze di Pierre Gris a Colombier. Sulla stessa nave di Saint-Malo, le Saint-Jacques, che trasportava tre grandi statue dello scultore genovese Francesco Maria Schiaffino per la chiesa dei Benedettini di Saint-Malo. A partire dalla fine del 400 fino al 700, però, la maggior parte delle forniture di marmi inviate da Genova è destinata alla committenza spagnola. Gli studi condotti in questi anni negli archivi genovesi e spagnoli hanno fatto emergere una enorme quantità di documenti. Qui accennerò molto brevemente soltanto ad alcune delle opere più importanti realizzate dai marmorari genovesi per la Spagna. La reconquista della penisola iberica nel 1492 e la ricchezza proveniente dalle nuove colonie americane portarono all'aristocrazia spagnola una nuova prosperità e un prestigio che si espressero anche in un desiderio di manifestare il ruolo di potenza europea della nazione spagnola con splendidi monumenti marmorei. Inoltre, con l'alleanza politico-militare stretta nel 1527 fra Andrea Doria e l'imperatore Carlo V, i rapporti fra Genova e la Spagna si fecero strettissimi e molti aristocratici spagnoli con importanti incarichi politici, militari e finanziari, si recarono a Genova, dove ammirarono questa città di marmo nei suoi palazzi e nelle sue chiese ricche di splendidi monumenti sepolcrali e dove presero contatto diretto con le botteghe degli scultori per affidare l'ordinazione di opere marmoree. L'attività dei banchieri genovesi per Carlo V e per l'aristocrazia spagnola funzionava da efficientissimo tramite anche per i pagamenti agli scultori genovesi, che inviavano le opere da Genova, ma spesso si recarono personalmente in Spagna per sistemare le sculture e gli arredi nella loro collocazione. Le principali esigenze dei nobili spagnoli sono l'esaltazione dinastica e il prestigio familiare. Le commissioni più importanti sono infatti costituite da grandiosi monumenti sepolcrali e dalla ristrutturazione dei palazzi. Don Fadrique Enriquez de Ribera, primo marchese di Tarifa, giunge a Genova nel 1520 e prende immediatamente contatto con le attivissime botteghe degli Aprile e dei Gaggini. Nel 1521 Antonio Maria Aprile e Pace Gaggini collocano nella Certosa de las Cuevas a Siviglia le splendide tombe marmoree dei genitori del marchese, Don Pedro Enriquez e Donna Catalina de Ribera. E nel 1533, sempre Antonio Maria Aprile, invia da Genova le colonne, i capitelli e la fontana in marmo di Carrara per il cortile della residenza sivigliana del marchese, la Casa de los Pilatos. Queste eleganti forme rinascimentali si inseriscono nelle raffinate architetture musulmane e il portale monumentale il portale monumentale riprende la struttura architettonica e decorativa dei portali dei palazzi genovesi. Anche il palazzo sivigliano di Don Juan de Almansa viene arricchito da un portale, 24 colonne di marmo di Carrara e un pavimento di bianco di Carrara e di pietra di promontorio eseguiti a Genova. Anche la committenza reale si rivolge a Genova per il rinnovamento delle residenze di Carlo V. A Granada il genovese Niccolò da Corte manda per il Palazzo dell'Alhambra una grandiosa fontana ed altri elementi architettonici negli anni 1532-1550. E per il Palazzo dell'Alcazar di Siviglia, Antonio Maria Aprile invia nel 1537 in 132 casse, caricate su due navi, le colonne di marmo bianco per il cortile delle donzelle. Le navi giunsero fino a Cadice, da dove risalirono il corso del fiume Guadalquivir e attraccarono proprio davanti all'Alcazar. Un caso del tutto particolare è poi quello dello splendido palazzo di Viso del Marqués, vicino a Ciudad Real, che intorno alla metà del Cinquecento Don Alvaro de Bazán, capitano generale della flotta spagnola, fece costruire dopo avere ammirato nei suoi soggiorni a Genova i palazzi genovesi e in particolare la residenza di Andrea Doria, col quale aveva rapporti di personale amicizia. Nei contratti con gli artisti è infatti indicato che balaustre e fontane dovevano essere uguali a quelle del palazzo di Andrea Doria. Portali, finestre, colonne, ogni arredo marmoreo fu mandato da Genova. Niccolò da Corte eseguì il monumentale camino in marmo bianco e pietra nera di promontorio. Ecco, oggi questo camino è stato però spostato all'Alhambra di Granada. Fra gli affreschi decorativi del palazzo, questa bella e realistica veduta di Genova, Civitas Genova, quasi proprio a affermare anche visivamente questo rapporto di amicizia con la città di Genova. La documentazione d'archivio ha conservato a volte le immagini di opere scultoree per committenti spagnoli che non sono state finora identificate o che sono andate distrutte. Ad esempio, non sappiamo per quale palazzo spagnolo l'aristocratico Giulio Sale, certamente nel ruolo di intermediario, ordinò nel 1592 allo scultore Giovan Battista Baguti una serie di camini. E ben poco ci resta della grandiosa residenza di Don Juan Vivas, ambasciatore spagnolo a Genova, negli anni 1605-1615, che egli si fece ristrutturare a Benifairo de las Valls, vicino a Valencia, decorandola con colonne, portali, capitelli, balaustre, stemmi, scale, fontane e statue da giardino, eseguite a Genova da Matteo e Rocco da Novo, Giovan Battista e Oberto Casella, Giovan Battista e Giuseppe Carlone, tre botteghe fra le più attive a Genova in quegli anni. Il disegno di Matteo da Novo per alcuni portali del palazzo, allegato nel 1606 al contratto notarile, è una delle poche testimonianze figurative rimaste. È invece ancora da verificare se ancora esista il portale in marmo bianco con le figure, colonne, intagli e sculture, eseguito nel 1654 da Tommaso e Giovan Battista Orsolino per il palazzo di Juan Martinez a Cadice, e non si conosce la destinazione di ben 2000 amandole, cioè piastrelle di forma romboidale in marmo bianco e marmo nero, per un grandioso pavimento, inviate in Spagna nel 1656 da Tommaso Orsolino. Concludo questa sintetica rassegna con un accenno alle forniture di arredi marmorei genovesi per le residenze dell'aristocrazia spagnola in Sicilia. Nel 1587 Gio Giacomo Valsoldo e Taddeo Carlone ricevono da Don Pedro de Mendoza, ambasciatore spagnolo a Genova, l'ordinazione di lavori in marmo per il Palazzo Reale di Messina. Sono balaustre come questa, colonne, progettate accuratamente nei dettagli. Inoltre, dal 1620 al 1626, Tommaso Orsolino e Lodisio Cerisola costituiscono una società per vendere marmo a Palermo. Certamente un approfondimento degli studi negli archivi siciliani potrà darci nuove interessanti notizie sul commercio dei marmi genovesi in Sicilia. Infatti, benché siano già numerosi gli studi sui marmorari genovesi, e la stessa diffusione in tutta Europa della loro attività e dei loro commerci ad allargare enormemente il campo della ricerca, che per alcuni territori è soltanto agli inizi. Vi ringrazio dell'attenzione.